Un programma che segue la tecnologia. Un programma che parla di software libero. Un programma che ha superato la 30ª puntata. Milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Fan accaniti in ogni angolo del globo. E Opencast Alpha. Move your ass and get yourself in gear. Move your ass and get yourself down here. Oh, come on. You won't believe what's going on. We'll be out till the break of dawn. Oh, come on. Don't waste your time with useless subcultures. Oh no, no, no. I'm coming out to play tonight. I'm coming out to play tonight. I'm coming out to play tonight. I'm coming out to play tonight. Boys are boring facts. Upper class boys won't take part. I can't now. Don't waste your time with useless subcultures. Oh no, no, no. I'm coming out to play tonight. I'm coming out to play tonight. I'm coming out to play tonight. I'm coming out to play tonight. I'm coming out to play tonight. Al mixer Fabio, alla sedia numero 1 Loris e alla sedia numero 2 Davide per una nuovissima, entusiasmante, fantasmagorica puntata di Opencast Alpha. Ragazzi, siamo alla puntata numero 31. Oh, che bravi che siete, gemelli del destino. Pazza. Bene. Un po' come le sorelle Kessler siamo. Sì, ti facevo più giovanona e coscia lunga. Io volevo fare Chip e Chop. Non... Anche sì. Vabbè, facciamo l'ispettore Loghetto e... Ciccio, l'esorciccio. Allora, no, rispetto alla loghetta, madonna. Allora, se, allora oggi parliamo di... no, scusate, dobbiamo... 31ª puntata, un numero importante, importante, direi. Importante, ragazzi. Fatevi sentire perché infatti... veramente siamo l'unico podcast sul panorama italiano di software libero veramente valido. Salutiamo tutti gli altri. Del mondo. Tu pensa agli altri. Io saluto poverini, tutti gli dai. Altri, salutiamoli, però noi siamo veramente meglio. Certo. Ditecelo. Infatti per questa 31ª puntata siamo arrivati veramente preparati, sappiamo quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo dire. Sì. Siamo carichissimissimi. Sì. E ci scrivono veramente da ogni dove per dirci siete bravi, siete forti, ci mandano verdure, pomodori, melanzane. Ci ha scritto Nina e abbiamo sì. Qui la lettera. Sì. Nina, la prossima volta metti francobollo. L'ultima Nina che mi ricordo era una tizia che in Tekken 1 molto gnocca, anche se c'erano pochi pixel ai tempi. Sì, ma quanti anni fa? Sì, su PlayStation 1. Una roba proprio... Salutiamo la PlayStation 1 venduta alla cifra lancio di 1,5 milioni di lire. Ciao Uno. Non l'aveva già detta questa, sì, no? Sì, okay. Sì, l'aveva già detta. In altri contesti. In altri contesti. Io volevo dire che siamo mancati per un po' di tempo perché abbiamo avuto dei grossissimi problemi, principalmente intestinali. Sì, no, di gestione del magazzino. Esatto. Però adesso abbiamo trovato una soluzione sì, open source. Sì, allora, sì, per piacere. Sì, sì, mi sì. Vergogno, guarda, come un ladro questa sera a registrare così. Guarda, io conosco tanti ladri che non si vergognano, però... Non vale, li hai votati. Ecco. Va bene, allora, Opencast Alpha. Notizie freschissime, siamo pronti. Siamo abbiamo, prontissimi. Io abbiamo direi studiato che tutto il puoi tempo. Puoi tranquillamente andare con la prima che ti sei preparato. La prima prima? Sì. Proprio la prima? Non la seconda, la prima. Allora, la prima che il governo portoghese il governo portoghese ha deciso di usare i tipi di file system, i tipi di file, quelli liberi, gli ODF. ODF. Open Document File. Format. File. Pensavo fosse una parolaccia. Sì, no. Perché... File. Hanno sentito che c'era un paesino in Germania che ha deciso di non usarli più e allora ha detto, ah sì, li prendiamo noi. Io volevo dobbiamo dire, equiparare le cose. Quando ho traghettato in Portogallo c'era la scritta, c'era scritto, quante volte l'ho detto c'era scritto? Ho perso il conto. Forse non era in Portogallo, però, però c'era scritto disporsi su più file e io non riuscivo a capire cosa cazzo volesse dire e disporsi su più file. Dovevi frammentarti. Ah, ok. Quindi disporsi su più file è andata così. Comunque sono riuscito a salire. Sei riuscito ad arrivare, vabbè. Comunque sì. Siamo felici della decisione del governo del Portogallo. Speriamo che il Surmonti faccia qualcosa anche per noi. Qua da noi, Cioè, a proposito di traghetti, scusami, traghetti mi sono perso. E deframmentazione. Ah, ok. Come siete belli che parlate vicini. Stammi vicino, come una cozza. Allora, se vi procurate una webcam e venite qui da noi, potrete vederci. Siamo collegati all'esterno. Potrete vederci direttamente. Sì, esatto. È fantastico questa. Anche la fotocamera del telefono. Già che ci siete, portate una torta o dei pasticcini. O da bere. Già che a proposito di pasticcini, io voto gelatino dopo. Ancora questa storia di gelatino open source. Ma non poi a novembre. Fa freddo, gelatino multinazionale. Ma qua dentro fa un caldo atomico. Vabbè. Allora, abbiamo dato la prima notizia. Abbiamo detto chi erano quelli che cantavano prima? No, non l'hai detto perché non sei capace. Oh, allora, erano i Commercial B-Side. Commercial B-Side. B-Sides con... sides. Quanti lati B hanno? Diversi. Si sente che mi gratta la barba? No. Ah, pensavamo fosse qualcos'altro. Pensavo fosse amore. E invece era la barba. Ma i nostri audioascoltatori non lo sapranno mai. Comunque si chiamava Coming Out to Play ed è tratta, come tutta la nostra musica, da Giamendo, bellissimo portale, in cui mancano le pagine, i tasti, gira la pagina. Non è vero, a me vengono fuori. Tu usi un programma brutto. Io voglio il tasto gira la ruota. Gira la ruota. Perché non l'hanno ancora implementato? Adesso vediamo. Ma qualche cosa di bello? Allora, io vorrei fare un attimo un'anticipazione, visto che la trentunesima puntata... Non è stato facile arrivarci, non è facile neanche andare avanti. più tardi ci sarà un grande ritorno che è mancato ultimamente dalle scene di Opencast, ma vi dico solo questo. Più tardi. Vabbè, altra notizia, vogliamo parlare di qualcosa di un po' bellino o mettiamo un pezzetto? No, dici. Un'applicazione che abbiamo provato, che stiamo provando in questi giorni per il nostro bellissimo sistema Android, la possibilità di installare una versione di Linux sul nostro fantastico robottino verde. Sì. Ma in chiacaroot, bella Debian, allora, in chiacaroot. Diciamo che ancora... c'è molto da fare. Ma ufficiale sta cosa? Ci sono le app. Ci sono già due app, sia a livello gratuito sia a pagamento con una piccola donazione. Ti permettono di, avendo un dispositivo rootato, ti permettono di avere una distribuzione root. No, niente non, root. Non mi viene. Ho mangiato i carciofi gratinati, non erano male, però... Stica, come si dice in questi casi. Comunque ti permette di avere una distribuzione Linux, solitamente Debian o Ubuntu, e collegarti in VNC, visto che ancora non c'è, su Android non c'è il server X. In realtà c'è ma non funziona. Vabbè, ci stanno lavorando. Ho visto che ci stavano lavorando, c'è già un'app. Sì, peccato che manca Xlib. No, ma funziona. Cioè, nel senso, qualcosa ancora... si apre, però non è abbastanza avanzato per riuscire a tenere in piedi. Bisogna lavorarci. Io comunque sto lottando. Qualcosa perché... si apre, ma non abbastanza. Sono problemi. Sono problemi che... Io vi dico che in una settimana, in 10 giorni, sono riuscito quasi a compilare BusyBox, il nostro coltellino svizzero di Linux, quasi... compilarlo, perché ancora non funziona. Bene, siamo contenti che i tuoi sforzi stiano andando in questa direzione. Però provate. Le due app si chiamano con, diciamo, Linux Installer e Complete Linux Installer. No, mi era venuto da ridere per una... frase che scoprirete dopo il prossimo brano. Ve lo diciamo subito. Vai Davide col prossimo brano. Sei sempre preparatissimo, cioè quando dico il prossimo brano tu 2 MS mi fai arrivare. Vai, vai. Bello questo. Tosto. Io volevo entrare sull'urlo, vabbè, va bene anche così. Puoi entrare un po' quando vuoi. Il signor Munch è assente. Munch. Comunque, la grande fatica di questa sera è rappresentata per lo più... Il grande sforzo. Il grande sforzo, veramente, da questa notizia che mi duole purtroppo dovervi dare. Ci è appena giunta in redazione. Purtroppo è venuto a mancare il creatore di un'applicazione. No, scusate, è arrivata una contronotizia, tutto falso. Ma cosa sta dicendo? Cacchio beve lui? Non lo so. Mi hanno passato il volantino commerciale della Media World e allora devo avere sbagliato qualcosa. Scusi. Bene, è drogato, eh. Non so cosa sta dicendo. Volevo parlarvi della, di un'applicazione di per Android in aumentata. Chi? Il famoso grande ritorno. Ma tienilo lì, tienilo lì. Lo tengo lì perché allora non ve ne parlo. È anche questa era un'anticipazione, no? Sì, noi sì, facciamo sì, crescere sì, la tensione per questa notizia. Allora parliamo di Linux Mint, è arrivata la versione 14. Finalmente. Finalmente. Ma sta siamo nel 2012. Cassando tutto. Ubuntu ce lo stiamo quasi dimenticando. Chi? Anche se il miglior desktop in circolazione è quello di Kubuntu. Kubuntu 12.10. Kubuntu con la K. Sì, sì. Ma KDE esiste ancora? Sì, no, che gira storia, anche bene. Penso di non usarlo da anni. E vabbè, ma anche il computer tu non lo usi da anni. Sì, in effetti adesso con tutte queste cose touch. Tra l'altro avete visto hanno lanciato, a sto giro farà veramente male perché è bello grosso, un tablet da cioè a Natale esce fuori un tablet da 13,3 pollici. Ma di chi? Della Mediacom, basato, no scusate, è un Arcos, l'Arcos dell'Arcos, l'hanno, scusate la botta sul microfono, lo hanno praticamente messo come target famiglia perché sarà un tablet da 13,3 pollici con 10 punti di tocco, quindi possono giocare 4 persone contemporaneamente. A livello hardware non è una grande... Arcos. Sì, no, non è una gran roba, è un vecchio, tra virgolette, processore chip A8 a 1 GHz, single core con 1 GB di RAM, tuttavia... Attenzione! Ci possiamo fare ancora delle cose discrete, dico io, Android 4, 13,3 pollici, prezzo €299. Ma ce ne sono un sacco con quel processore lì che non costano delle cifre sì, assurde. Però sì, il 13 sì, tu ne hai uno, è sì, uguale. Sì, sì, no? Il 13 è un formato nuovo, si sta buttando. Sì. Io vi devo dire invece che purtroppo la... Scusa. Purtroppo. Dillo come lo sai, Dele. Purtroppo. Ma mi fate dire almeno la cosa importante. E che minchia, parla come sai parlare. Parla maiuscolo, parla, stabatello. Posso usare la K? La K ha scritto K-C-A-P-P-A, sì. Ok, allora, pull K, la comunità ha detto che ci metterà un po' di più a sparare sul Linux, sui nuovi computer predisposti per Windows 8. Perché questo nuovo sistema è un pelino più complicato. Il sistema di avvio, il gestore di avvio, non ci sarà più Grub o menate varie, e ci sarà da litigare con le partizioni principalmente. Ma c'è ancora un BIOS nei computer con Windows 8? Non credo, ma c'è un computer dentro Windows 8? Ma c'è... Windows 8, c'è Windows dentro 8? C'è un fuori dall'8? C'è il passerotto. Ma questo 8 l'hanno fatto col freno a mano o si il normale? Si deve messi male comunque. La situazione mi sembra molto grave. Bravissimo, comunque ci ho giocato e non mi piace. Proprio non mi piace. A che gioco hai giocato? Col freno a mano? No, con Windows 8. Con Windows 8. Oh signor. No, io ancora non l'ho provato. Cioè, l'ho visto al supermercato, ma... Io ci ho lavorato un pomeriggio più o meno su un bel i5 con 3 giga di RAM. Vi dico solo una cosa. Il sistema, una volta partito, occupa da solo 800 mega di RAM. Vabbè. A livello di disco, una versione pulita con Office, siamo sui 16 giga. Su disco? Senza nient'altro. Non ci lamentiamo perché anche OS X si mangia tanto di quella RAM. Sì, vabbè, ma il nostro Penguins... Noi siamo noi, eh. My Penguins... Noi siamo noi, ragazzi. Spacca tutto. Io l'altro giorno ho installato il Penguins su un P4 1.7 GB. Ma tu veramente non hai niente da fare. Sì, ho installato perché non ce la facevo più. Reattività zero di quel computer, c'aveva un Xpippo. Io ho detto, sai che faccio? Gli ho messo una Pappi installata da Xpippo, mi ha riavviato, ha fatto tutto lui. Adesso c'ho una Pappi fantastica e vado, che è un piacere. Vai dove vuoi. È un PC nuovo, ragazzi. Ho recuperato un vecchio P4 1.7 GHz con uno dei peggiori core mai esistiti sì, a questo mondo. Si chiama Scaldotto. Era... cos'è che era? Sì, era il... Non mi chiedete Scaldotto, il nome del chip, però era lo una roba allucinante. Scaldotto, fidati allo Scaldotto. Pentium 4 Mobile penso che sia stato uno dei peggio processori di sempre. Vabbè, altra cosa, ultimamente con la mia bellissima Gentoo che mi ha bruciato il processore 8 core. Ti ha bruciato il processore 8 core? Allora, scusa, tu sei riuscito con un agente? No, allora. Ti ha bruciato il processore. Allora, tecnicamente c'è stato un difetto di produzione. Certo, certo. È stato così. Ha fatto Emerge Word e il processore ha fatto... Ed è morto. Gli è piaciuto. È moriuto. E vabbè, adesso siamo a 6. Comunque, installando Wine... 6 core o... 6 core. Ah, e gli altri due sono morti. No, no, no, no, ho dovuto sostituirlo. Ah, okay. Per ora ho 6. Vabbè, comunque, installando Wine, mi sono accorto di una cosa stranissima. Adesso la mia bellissima Gentoo, quando clicco col destro su un'immagine, mi chiede se voglio aprirla con Wine Internet Explorer. Dovrò provarlo. Perché non è una questione di core, è perché hai installato Wine dopo, sì, tutto il resto. Sì, lo so, però mi piaceva quella, dire la cosa dei core, per far parlare quelli cattivi come te che dicono che Ark è più bella. Beh, Ark è più bella. Beh, core, diciamo. core, il tempo corre. Io direi mettiamo un altro brano e poi ne parleremo prossimissimamente. Questi sono i nostri amicissimi, The Wimwers. Aumentata. Scusa? Aumentata. Penso che qualcuno cominci a capire. Aumentata. Che cosa aumentata? La febbre del sabato sera? Sì, perché se ci state ascoltando di sabato sera, può essere. Siamo un podcast opencast. Può essere che ci state ascoltando anche il sabato sera. Già che ci ascoltate sabato sera, perché non ci portate fuori a bere qualcosa? Ecco. E ma se ci stanno ascoltando tipo di domenica mattina? Una colazione. O di martedì pomeriggio? Martedì pomeriggio ci sta dentro un brunch. Ma portateci da bere qualcosa in generale. Io lo faccio all'ora che voglio, bene? Un brunch al martedì pomeriggio? Avete rotto con i... Sarebbe un brunch aziendale, via. Un brunch. Allora, io vi volevo parlare di Ingress. Che chi è? Ingress. Chi è? Chi appartiene? Sembra ingresso la parola, infatti. In pratica si tratta di un gioco per Android, che in questo momento è in beta testing, sviluppato da Google e Niantic Labs. E a quanto pare questo videogame si basa sulla realtà aumentata. Ma hai detto aumentata. Esistono due fazioni, la fazione degli Illuminati e la fazione della Resistenza. Gli Illuminati devono raccogliere sfere di energia per riuscire a controllare il mondo, mentre la Resistenza li deve combattere affinché questi non possano controllare il mondo. Come funziona questo gioco? Beh, per adesso usate il vostro smartphone con Android e andate in giro per la città a cercare sfere da distruggere oppure da inglobare, agglomerare, che ne so, ma l'esperienza definitiva, finale, super figa, ci sarà quando ci saranno, mi piace, gli Android Google Glasses. Chi è che? Amici, una musica. Ma io non ho capito una cosa, cioè. Una praticamente musica così non ce l'hanno nemmeno su Halo 9. Ma io non ho capito. Allora, la realtà è aumentata. No, io mi sono lasciato un attimo prendere. Mi sono preso la nostra amica Gianna. Mi sono lasciato Gianna, quella dell'altra volta. Mi sono lasciato prendere dalla musica, giuro. Comunque, c'era Gianna, quella della realtà aumentata. Mi ricordo che da allora la inquadravamo e ci diceva i prezzi, quelle cose lì, no? Sì. E la tua vicina, quella lì sotto, procace, molto pro, poco cace. Ah, così aumentata. Sì. Ah, okay, okay. No, questo non ha niente di così aumentato, secondo me. Questo adesso, gioco. Adesso ci spiega bene come funziona, allora, perché lui l'ha provato a installare. Ci ho provato. Io aumento, no? Io l'ho installato. Ok. Io l'ho installato. Va bene. Però adesso mi chiede il codice per entrare al beta testing. Quindi vi prego, Google, o che sia che ci state ascoltando, che ha ascoltato come sempre Open. Allora, Cast. Aspetta, facciamo le cose bene. Allora, facciamo l'appello. Se tu vuoi fare il beta test, no, ci deve essere un alfa. Ma facciamo. Gli dice alfa, tu sei beta. Ma perché invece. Facciamogli fare l'appello. Attenzione, prego, vai. Il microfono è tuo, fai pure l'appello. Non c'è lo stacchetto musicale? No, è così, dai, vai con l'appello. Ciao Google, io sono Loris e lavoro per Opencast Alpha e vorrei chiederti se per favore per questo Natale o anche prima, se possibile, lo so che non sono stato bravissimo quest'anno, però posso migliorare, se mi mandi un codice per fare beta testing di Ingress, perché voglio, cavolo, provare ad andare in piazza, in città dopo lavoro e raccogliere sfere di energia per poi entrare nei portali e controllare il mondo, ok? Voglio fare l'illuminato, non voglio fare quello della Resistenza. Lo so che vogliono fare tutti la Resistenza. Io faccio l'illuminato, va bene? Allora, due cose. Ce ne sono pochi. Mandatemi beta testing. Tu non lavori per Opencast, visto che non percepisci uno stipendio. Vabbè, ho capito. Era per fargli capire che. Seconda cosa, nessuno crede che tu utilizzerai questa applicazione solo dopo il lavoro. Io ti immagino che arriva un cliente, tu lo filmi e dici: è un mostro. Questi nuovi giochini in realtà aumentata sembrano molto interessanti, perché effettivamente vanno a mixare appunto la realtà aumentata alle regole dei giochi di ruolo di massa, tipo World of Warcraft per esempio. Però c'è di bello che non state, in teoria, se prenderanno piede, non starete davanti a un computer, però vi andate a fare una passeggiata in città a cercare questi portali, queste sfere di energia, i vostri nemici, e poi vi prego, non pigliatevi a botte per davvero. No, ma comunque, cioè, voglio dire, senza la realtà aumentata c'è gente che fa gioco di ruolo andando veramente o di si persona. Piglia botte. Sì, io conosco un'amica che va nei boschi, esatto, che si vestono da cavalieri, vestita da elfo. Ecco. Ma solo lei o anche gli amici? Ci sono anche altri amici. Da sola, di notte. Ci sono anche altri gli amici ci sono. Però vi assicuro che c'è di peggio, sì. Perché se uno incontra un elfo nel bosco, vabbè, magari si fa una risata. Però c'ho degli amici che fanno soft air, per esempio, quando tu stai facendo una passeggiata nel bosco e ti escono 5 soldati da un lato e dicono: Ci vorrebbe per esempio una basetta, no, in questo caso, se ce l'avessimo. Allora, aspetta. Mi era sembrato di sentire una basetta prima. Così? Ma no, non c'era la basetta. Sempre quella ormai. Mi ero preso bene perché c'era la basetta, quella dei soldati, che mi hai fatto sentire prima. Non ce l'ho. Vabbè, non ce l'abbiamo più. Quando escono soldati dal bosco e a destra 5 soldati, a sinistra 3 5 soldati, tu stai facendo una passeggiata con la tua fidanzata e loro dicono: tutti a terra. Bene, questo è il peggio. Cos'è che dicono? Tutti a terra. Ma ci mentre sono sparano anche delle colpi di plastica e non finiscono mai proiettili. Padre veramente santo, tu che no. Ah, adesso sembrava un attimo. Siamo finiti. Ah, è così. Quando sei sporco di fango. quando i tuoi compagni sembrano averti abbandonato. Stai nel bosco e trovi due persone che passeggiano. Puoi avere la tua rivincita su di loro, uscendo e gridando tutti a terra! Cioè, l'importante è che dici ia ia ia ia ia. E poi escono i tre porcellini e dicono oh. non me la ricordavo proprio così, però. Vabbè, andiamo con un altro pezzo. Adoro questa base. Sì. Non la mettere più, per piacere. Lo sai che si trasforma. No, ma poi la scarico proprio. Vai. Senti come pompa. 80 Samanettas. Esatto, dagli anni 80 direttamente. Film noir scandal, meth pop scandalous remix. Mix. No, ma è bello sto pezzo, però. Bello, veramente. Io devo dire che... Siamo sempre su Opencast Alpha. Puntata numero 3-1. Il podcast tecnologico open source del gruppo Linus di Como. Perché voi magari, voi ci ascoltate, non so, la mattina quando prendete il pullman, andare a lavorare. O tornare a casa dopo la notte alla di lavoro. Alla sera. Esatto, o durante il pomeriggio quando siete in ufficio e non sapete che cosa fare, per esempio. O mentre state giocando con la vostra realtà aumentata. Esatto, oppure se siete in bagno così a aumentare la vostra realtà, esatto. O state giocando con altre cose aumentate in bagno. Esatto, invece in realtà noi registriamo sempre a delle ore improponibili di notte. Per esempio adesso sono le? Adesso è quasi mezzanotte. Delle 2 del mattino. Più o meno, insomma manca un'ora, sì. Più o meno mezzanotte, ma vabbè. Di mercoledì come Antani. Esatto. Però vuol dire che a un certo punto la parlantina comincia un attimino a lasciarsi andare. Era un giovedì di un venerdì di un sabato domenicale. Comunque noi siamo del gruppo Linux. Vi volevo dire solo una cosa, visto che abbiamo fatto Linux Day, che ci piace Linux. Ecco, visto che abbiamo fatto Linux Day, sul sito è presente il materiale da scaricare, quindi scaricate. Vi ricordo www.gl-como.it, dove troverete appunto il materiale di Linux Day, ma dove troverete anche tutte le puntate di Opencast Alpha, compresa la presente, dove troverete i link alle notizie e alle canzoni che vi abbiamo fatto ascoltare, tutta musica in Creative Commons, direttamente da Giamendo. Dove troverete anche Giamendo, su Giamendo. Questa sembra quella di Kenshiro, eh? E questa è sempre la base che abbiamo da mezz'ora ormai. Bella però, mi sta piacendo, ascoltiamola un po'. Se ne è accorto adesso? No. Interessante. Signori, è Opencast Alpha. Mica un programma così. Queste musiche non ce l'ha neanche Halo 15, capito? È un programma cos'ha. È l'ultima news della serata, ce prima l'abbiamo. Di abbandonarvi. Allora, l'altro giorno stavo girando fra le cavolate di Surce Forge e ho trovato questo bellissimo progetto. No, ti interrompo solo per dire che sei un falso. Perché? Perché l'altro giorno corrisponde a circa mezz'ora fa. Saranno stati 10 minuti. Comunque ho trovato questo bellissimo programma che può essere scaricato per qualsiasi sistema operativo. C'è il Windows, c'è il Macintosh, c'è il Linux, c'è il FreeBSD. Che gli hanno bucato i server, tra l'altro, a FreeBSD, se non erro, vero? Un po' sì. Gli hanno un po' bucato i server l'altro giorno. Chissà come mai, vabbè. Perché volevano giocare al giochino per quello. Ma tanto non bisogna aggiornare. Quelli sono a Benford, Stanford University, cosa pretendono? Comunque, stavo dicendo, c'è questo bellissimo programmino. Berkeley, andatelo no? a cercare. Smettila! Berkeley, sì, FreeBSD sta per sì. Berkeley, Software Distribution. Comunque, Rigs of Roads. Troverete poi il link, ovviamente. È un gioco senza la realtà aumentata, questo. No, allora sì, io non lo voglio sapere. Però ci sono le macchinine. Però è 3D. E non 3D. Mi piace. No, è bello. Spacca. E ultima cosa che vogliamo dire? Ultimissima cosa, io direi che potremmo anche chiudere... Così. In bellezza. Chiudi la porta, chiudi. Sì. Potremmo chiudere in bellezza con la classifica di DistroWatch. Potremmo. Ma vogliamo? La verità è questa. Dobbiamo più che altro. Ok. Se sai che DistroWatch no? ci passa... Ci paga. Ci passa delle ISO da masterizzare. Ecco. Principalmente sì. Allora. Attenzione, la classifica di DistroWatch... Aspetta un attimo. Signori, la classifica di DistroWatch. Allora... Da cosa potremmo iniziare? Direi di iniziamo dal decimo posto. Un antipastino. Ok, al 28esimo posto c'è Gentoo, basta. Ah, è al 21esimo. Basta, finita la classifica, che tutto il resto è noia. Ha implementato la funzione di brucio processore 8 core. Allora, volevamo parlare di Body Linux alla posizione numero 17? E non so, se lo vuoi parlare dillo però, così, no. Ma devi essere un po' più Body convinto. Linux. Alla posizione 17. Altre distribuzioni non ci interessano. C'è Debian alla 6, come al solito. OpenSUSE. Fedora. Cosa stai facendo? Sto attaccando un fiocco rosso. Vabbè. Per vedere se mi tocca nel microfono. Ditemi dov'è Ubuntu. Ubuntu è al terzo. Terzo. È stabile. Ed è stata sorpassata da? Mageia. Ma oltre che stabile è anche LTE? Ma non credo. Non credo sia neanche stabile oramai. E al primo posto, un dite. Mint. Sta scendendo un po', Diciamo che è più o meno... Era al primo posto anche l'altra volta. Sì, sta scendendo perché prima era lo zero. Allo zero. Mageia è al secondo. Sì. Ah, Ubuntu, però. Fedora, OpenSUSE, Debian, Arcamelo. Una distribuzione inutile proprio. Rosa al 22esimo posto. Abbiamo queste canzoncine che sono veramente un sacco da gioco di ruolo. Me le dovevi mettere mentre parlavo di Ingress. Sì, quando sei in città e il tuo smartphone ti dice: sì, hai incontrato sulla tua strada un nemico. 3, 2, 1, fight. Fight. Combatti. È bello perché tu la metti e lui parte così. No, vai, mettila ancora, scusa. Ma no, io volevo quell'altra, era bellissima. Adesso ti voglio vedere su questa. Quando sei per strada e incontri una nonna col sacchetto delle zucchine che lo tira in testa a un panca bestia perché il suo smartphone gli ha detto è un nemico della resistenza e tu sei un'illuminata. Beh, lì ti rendi conto della potenzialità di Ingress, di Google e della realtà aumentata. Esci di casa, usa i tuoi Google Glasses, usa il tuo smartphone e salutaci tutti gli amici di Fonzi. Dio. No, così. Allora, visto che abbiamo detto la classifica di DistroWatch. Sì, direi altre cose da dire di DistroWatch. Sei dei nomi interessanti. Ma, dopo Rosa. No. Deborah con l'H. Deborah con l'H. Chiudiamo, io chiuderei cercando dov'è la distro preferita nostra. Che è... No, non esiste. Che è... Non è quella. Voglio dati GPS, dov'è? Allora. No, triangolazione. No, non è quella, quella no. È Antana. Antana? È la distribuzione di amici miei, come Antana. Antana. Come se fosse Antana. Come se fosse Antana. Una pulitina. Eccola qui. Ma che c'è? Oracle. 65° posto. Oracle. FreeNAS 54°. Sì, non era FreeNAS. FreeNAS sembra uno sbiancante per denti. Parted Magic 49°. Vabbè, va bene, ma serve solo a fare le partizioni. Intanto che non c'è. Va bene, infatti dico. Allora, telefono. Intanto che tu vai avanti a cercare la Anna Montana Linux. Anna Montana Linux, che posizione è in classifica? Noi andiamo avanti e chiudiamo qui. Vi salutiamo. Vi ringraziamo. Ciao donna. E recensiremo prossimamente Antonella Linux. Mi raccomando, come Antana. Come Antana? Eh?